1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, mentre vi ricordo che è in corso la 161esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. È mercoledì, è iniziato giugno e siamo qui a leggere i giornali. Forza, forza. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. Ma in realtà di temi ce ne sono, caro padre Livio, in questo mercoledì 1 giugno. I titoli intanto: l'apertura del Sole 24 Ore, come di molti quotidiani, dedicata a Ignazio Visco, il presidente di Banca Italia. E Visco taglia il cuneo fiscale, più investimenti pubblici. Questo è il titolo del Sole 24 Ore in prima pagina. Il governatore parla così. Per il Corriere della Sera è spinta di Visco sulla ripresa, mentre per il Messaggero Visco investimenti per crescere. La Stampa, la sferzata di Visco alle banche, modello vecchio, tagliate i costi. Per Repubblica invece si va sul tema migranti, accogliere tutti, la CEI contro il Viminale. Un'intervista a Monsignor Galantino, capo dei Vescovi, che dice accogliere tutti i migranti. Libero, in 10 anni 25.000 morti, vittime di chi predica l'accoglienza. Abbiamo calcolato quanti immigrati sono deceduti in mare. Invece l'apertura del giornale è come non pagare il canone della RAI. Anche un'altra cifra che mi ha impressionato è l'apertura di Avvenire, un rapporto della fondazione australiana Walk Free. Il titolo è questo: milioni di schiavi che non vediamo, è il calcolo di 46 milioni di sfruttati. Questo è secondo questa associazione australiana. Intanto, cari ascoltatori, voglio partire ancora dal fatto di cronaca e cronaca nera che ha sconvolto Roma, con l'uccisione di questa ragazza, Sara Di Pietrantonio, da parte dell'ex fidanzato, perché oggi i giornali sono ancora pieni di tanti dettagli, interviste particolari, a cominciare da questo, e lo dico non perché, diciamo, voglia sfrucugliare i vostri istinti più bassi, ma il killer di Sara, ora in carcere, dice: ho tanta paura. Ovviamente non è accolto amichevolmente in carcere uno che si macchia di questo delitto e poi confessa, e infatti racconta dal carcere: prima viene messo in carcere in cella con un'altra persona, poi chiede di rimanere solo, temo ritorsioni in carcere. Quello che mi ha più colpito però di questi racconti sono intanto i verbali e il racconto della madre della vittima. La madre della vittima, vale a dire Tina Racqui, che racconta quel litigio alla festa e soprattutto le chiamate continue una ogni 10 minuti. Fiorenza Sarzanini, pagina 17 del Corriere della Sera. Un mese fa, al giorno del suo compleanno, Sara si era rattristata perché Vincenzo le aveva rovinato la festa. Incontra il capo della squadra mobile, Luigi Silipo, rimane a lungo con lui prima di verbalizzare tutto quello che sai che ha visto, racconta della loro storia. All'inizio dice: lui era una persona normale, dormiva spesso da noi. Ma possibile che non ci sia stata alcuna avvisaglia? Chiede il capo della mobile. A un certo punto la madre racconta: effettivamente qualcosa era successo in passato, è vero, era molto geloso, quando non stava con lei la chiamava in continuazione anche ogni 10 minuti, sempre per sapere che faceva, con chi stava. Tra l'altro racconta ai giornali e anche lo stesso Corriere della Sera che le paure di Sara erano state confessate al nuovo fidanzato, tanto che Sara, insieme al nuovo ragazzo che frequentava, avevano installato e preso delle misure di sicurezza sull'iPhone della ragazza per fare in modo che qualunque messaggio arrivasse venisse letto anche in contemporanea dal nuovo fidanzato. Dall'altra parte invece Vincenzo Paduano, vigilante di 27 anni, colui che ha confessato il delitto, a sua volta aveva installato, questo almeno raccontano gli inquirenti a insaputa della vittima, un'app che permetteva di geolocalizzare sempre l'iPhone della sua ex fidanzata. Ecco perché sbucava sempre, sapeva sempre dove si trovava anche quando frequentava questo nuovo ragazzo, sbucava sempre perché controllava i movimenti sull'iPhone della sua vittima. E poi in tutto questo c'è anche il racconto molto scorato di questo diciottenne Edoardo Paraninfi. Chi è? È uno dei due motociclisti che hanno visto i due ragazzi, a questo punto si può dire, litigare poco prima di questo omicidio. Edoardo Paraninfi viene intervistato da Repubblica, da Lorenzo D'Albergo, a pagina 20, e dice: ho sbagliato, dovevo aiutarla, lei urlava e io non ci dormo più. Sono passato troppo prima e troppo dopo, è una rabbia dentro e la notte non dormo più. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere quello che sarebbe successo. Così inizia lo sfogo di Edoardo Paraninfi, meccanico, 18 anni, che si accende una sigaretta, tira fuori la testa del cofano di una macchina in riparazione e risponde alla domanda perché non è intervenuto. Sapete che il magistrato ha detto chi vede queste cose deve intervenire o comunque chiamare la polizia. Lui risponde: quando sono passato lui era fermo, non diceva nulla, non sembrava minaccioso, era in piedi contro un'auto grigia, dava le spalle alla strada. La ragazza, piccola, bionda, invece gli urlava contro. Sono passato a 70 all'ora, è durato tutto un attimo, ricordo lei che muoveva le braccia, insomma in quel momento la più arrabbiata dei due sembrava lei, saranno andati in discoteca, magari è una scenata di gelosia, ho pensato, io ho visto tante risse, a testaccio una volta sono stato inseguito da uno con un coltello, insomma non ho pensato e sfido chiunque a collegare quello che ho visto con quello che poi è successo. Quindi dice: non ho sentito cosa dicevano, è impossibile. E poi quando sono tornato per la stessa strada ho visto la macchina in fiamme, ma c'erano già gli agenti della polizia. E insomma, quando ha saputo che invece i due ragazzi che aveva visto litigare erano Sara e il suo assassino, che ha pensato? Beh, la mattina mia mamma mi ha svegliato dicendo: hai visto cosa è successo qui dietro? A quel punto ho collegato subito, mi sono vestito e sono andato dai carabinieri. E adesso più ci ripenso e più sto male. Ne ho parlato con una mia amica, ma cosa potevo fare? Sono arrabbiato, ma nessuno avrebbe mai potuto prevedere quella fine. Solo una cosa è certa, fino a ieri ero contro l'ergastolo, ma quando tocchi una donna non sei più un uomo e spero che la pena sia pesante. Così parla, se volete, anche un altro dramma, certo più piccolo, questo di questo ragazzo che dice: potevo fare qualcosa forse, ma davvero non ho capito che si andava in quella direzione. Tra l'altro questo tema avremo ospite alle 8.20 Giulia Bongiorno, avvocato che propone appunto l'ergastolo come deterrente, suscitando anche un dibattito, vedremo e discuteremo con lei. Mentre se rimaniamo in ambito di cronaca giudiziaria, c'è da registrare che ieri c'è stata la conferma anche in appello per il comandante Francesco Schettino, 16 anni e un mese di carcere al comando della Costa Concordia la notte del naufragio. Schettino, 55 anni, di Meta di Sorrento, è stato condannato anche in appello, condanna dunque confermata, 16 anni e un mese. Non è in carcere, in questo momento ci vuole la pena definitiva in Cassazione. Tra l'altro racconta La Stampa da lui, no, lui non si è presentato all'appello a Firenze, e anzi racconta di un'altra vita di Schettino, che lo ricordate, anche ha partecipato a qualche festa, ha fatto un'intervista, ha scritto un libro, eccetera. Ma Grazia Longo racconta sulla stampa, a pagina 13, addio al guascone playboy. Ora è un marito pentito che cerca conforto in famiglia. Insomma, la paura del carcere gli ha fatto cambiare vita. Sui social, racconta La Stampa, rimane sempre Capitan Codardo, ma addio a quella versione guascona, piaciona del comandante Schettino, abbronzato e sorridente ai parti in villa a Ischia con le dame bianche o sulle copertine dei rotocalchi. Insomma, grazie anche all'affetto della figlia ventenne, è diventato tutto casa e famiglia. Casa e famiglia. Il rischio è tra poco anche carcere, dopo l'eventuale giudizio in Cassazione. Comunque staremo a vedere. Oh, attenzione, c'è un giallo che riguarda Salvini, riguarda Donald Trump, riguarda una foto. Ricordate quando Salvini di recente è andato negli Stati Uniti, ha fatto una foto con Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza americana. Ora c'è Salvini, come racconta Repubblica, pagina 18, che dice: non ho mai incontrato. Donald Trump, non ho mai incontrato Salvini. Lo dice, come racconta Arturo Zampaglione su Repubblica, in una intervista che sarà pubblicata oggi dal Hollywood Reporter. Non ho voluto incontrarlo. Ma come? Ma c'è la foto e qui c'è il giallo. Ma allora che vuol dire questa foto? Gli scenari sono diversi, secondo Repubblica. Uno, Salvini si è avvicinato a Trump, è riuscito a fare una foto, ma Trump in realtà non si è reso conto della persona che aveva a fianco. Cioè, si è reso conto che, non so, gli è stato presentato come un ammiratore e ha fatto una foto, con un ammiratore. Oppure, secondo Repubblica, Salvini si è quasi intrufolato. Oppure, scenario terzo, Trump non ha convenienza e vantaggio ora nel valorizzare i legami con un Salvini come con un Le Pen, con una Le Pen in Francia. Insomma, vi lascio con questi grandi dubbi alle vostre colazioni su questa foto Trump-Salvini e Trump che dice non l'ho mai incontrato. Va bene. Siamo qui, invece, al premio Mani sul Volante. L'articolo che mi fa della giornata è dal Messaggero: l'assenteismo al ministero, 6 condannati per truffa. Beh, almeno c'è una buona notizia in questa, che parzialmente è da Mani sul Volante e parzialmente ci dà un po' di sollievo e conforto. La condanna per alcuni dipendenti del Dicastero dei Trasporti che lasciavano il lavoro con vari stratagemmi. Nonostante saltassero regolarmente il lavoro, la busta paga non diminuiva di un centesimo, racconta il Messaggero, con la firma di Michela Allegri a pagina 15. Ma ora i giudici di Roma hanno stabilito che si tratta di truffa, costata agli impiegati infedeli una condanna penale. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il pigmalione dell'informazione. E vabbè, la rima baciata c'è, cari ascoltatori. Mandate sempre le sigle al 349-238-6666 via WhatsApp a annunciazione. Noi siamo qui domani regolari, non facciamo il ponte, siamo qui il 3, razza di debosciati, noi a tenervi compagnia con la rassegna stampa, a raccontare quello che succede sui giornali, eccetera. Va bene? Razza dei debosciati era come sempre un vezzeggiativo il mio. È una carezza quella che vi do, mica altro. Allora, parliamo di immigrati, perché è un tema molto dibattuto in questi giorni. Le immagini d'altronde sono terribili, gli sbarchi ci sono, anche se il governo continua a dire, numeri alla mano, sono gli sbarchi al livello degli altri anni. Non c'è un'invasione. E sapete che in Italia non ci si mette d'accordo neanche sui numeri, la matematica dovrebbe dare una certezza e invece si litiga. Comunque oggi fa discutere l'intervista che Repubblica fa a Monsignor Nunzio Galantino, è il capo della CEI, vescovo, che dice a Paolo Rodari: no a centri sulle navi, dobbiamo salvare i migranti e offrirgli un futuro. Insomma, critica il governo che sarebbe pronto proprio a proporre centri di identificazione sulle navi, mentre Monsignor Galantino dice che bisogna accogliere tutti i migranti. La partenza dei migranti in fuga da situazioni drammatiche avviene in situazioni di insicurezza attraverso trafficanti senza scrupoli, al punto da rendere difficile ogni soccorso. Quelle morti sono uno schiaffo alla democrazia europea, incapace di salvaguardare e proteggere persone in fuga. L'hotspot, dice Monsignor Galantino, è una riedizione in brutta copia dei luoghi di trattenimento delle persone. Le organizzazioni internazionali a tutela dei diritti di migranti, come la Fondazione Migrantes e la Caritas, hanno già ricordato che i migranti salvati in mare hanno il diritto, sulla base di una storia personale e non di una lista di cosiddetti paesi sicuri, di presentare domanda d'asilo e al ricorso se una domanda non venisse accolta. Sulle navi questo percorso non è possibile, come non è pensabile l'utilizzo di navi destinate al soccorso per far stazionare nel Mediterraneo migliaia di persone in attesa di una non precisata destinazione. E dunque c'è questo dibattito rilanciato da Monsignor Galantino. Oggi interviene sul tema anche Vittorio Feltri, lettore di Libero, Libero mette in prima pagina questo calcolo: in 10 anni 25.000 morti, abbiamo calcolato quanti immigrati sono deceduti in mare. Vittorio Feltri scrive nell'editoriale: se di notte penso ai bambini annegati non chiudo occhio, quando vorresti addormentarti vengono in mente queste immagini, non chiudi occhio. Ma come fare ad aiutare e ospitare tanti disperati, accoglierli tutti? Ma quanti sono? Il Papa non ha misure, venga qui chiunque. Quanti? 1.000, 10.000, 1.000.000? Questo è il punto. Difficile immaginare il numero degli sbarchi. Non abbiamo case per i connazionali, figuriamoci per gli stranieri. La nostra sanità è in ginocchio, l'assistenza sociale è deficitaria. Ciò nonostante, molti compatrioti, tra cui non mancano i politici, sostengono che bisogna continuare a salvare i disperati. E scrive invece Feltri: dobbiamo dire con chiarezza all'Europa che non siamo più all'altezza di fare i bagnini del Mediterraneo. Si prendano cura dei naufraghi altri e se li portino a casa loro, considerato che noi abbiamo già profuso ogni sforzo e esaurito le risorse. Inoltre sarebbe opportuno avvertire chi intende salpare che non è il caso di farlo, perché il rischio di affogare in mancanza di soccorsi è tale che non vale la pena di affrontarlo. Può darsi che qualcuno si azzardi lo stesso a espatriare, ma una volta constatata l'assenza di aiuti in mare, la maggioranza rinuncerebbe a tentare la sorte. Insomma, Feltri dunque dice: bloccare le partenze e come? Facendo sapere che non vi salviamo più in mare. E qui è la grande polemica. Anche il Manifesto mette dei numeri, sono diversi, sono 2.510 migranti che hanno perso la vita attraversando il Mediterraneo, 880 solo nell'ultima settimana. Denunciarlo è l'Alto Commissariato per i Rifugiati. 2.510 migranti che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno. Ecco, Libero aggiorna invece: in 10 anni 25.000 morti. Insomma, questa è la situazione. Altro numero invece: l'Italia è per l'Italia un salasso la gestione dei migranti, scrive il giornale, spesi 5 miliardi in 2 anni. Insomma, ognuno dà la cifra che più conviene. Tra l'altro, a proposito di non migranti ma stranieri, sia Repubblica che Avvenire mette legata alla vicenda immigrazione questa storia che viene dal Belgio e che però riguarda un po' anche vicende italiane. La Corte europea dice: è legittimo vietare il velo sul posto di lavoro. Andrea Bonanni, pagina 4 del quotidiano Repubblica: un datore di lavoro può vietare ai propri dipendenti di portare in modo visibile segni politici, filosofici o religiosi, nella fattispecie il velo islamico, in nome di una politica di neutralità che è perfettamente legale. È la conclusione a cui è giunto l'avvocato generale della Corte di Giustizia europea, chiamata a decidere sulla legittimità del licenziamento di una lavoratrice in Belgio. La lavoratrice, la signora Samira Akhbita, islamica, che faceva la receptionist in Belgio, si presentava col velo, è stata licenziata dopo 3 anni di lavoro e ha fatto ricorso, ma appunto è stato deciso che si può chiedere di togliere il velo. Anche Avvenire: via il velo al lavoro si può, l'azienda può vietare ai dipendenti di portare simboli religiosi. Vabbè, veniamo invece alla questione politica. Le questioni politiche: ieri dicevamo l'antimafia avrebbe annunciato i 14 impresentabili trovati in varie liste, non sono nomi altisonanti e famosi. Nella lista nera, raccontano i giornali, il comune maggiormente citato è Battipaglia del Salernitano, dove la commissione indica 7 con nomi e cognomi: Carmine Fasano, Daniela Minniti, Lucio Carrara, Francesco Procida, Bartolomeo D'Apuzzo, Demetrio Landi, Giuseppe Del Percio. Hanno condanne, scrive Repubblica, per reati che vanno da bancarotta fraudolenta alla cessione illecita di stupefacenti. Ce n'è anche qualcuno a Roma. Uno, Fernando Vendetti, nella lista Pestorace per Marchini sindaco, dice: ma quale cattiva persona, intervistato dal Corriere della Sera, e dire che una volta ho anche salvato una cinese dall'aggressione di 8 nazi skin vi sembra una cattiva persona? Sono stato condannato in primo grado per la promessa poi disattesa di aiuto per un posto di lavoro fatta a una persona in difficoltà. Ma lui dice: ho anche denunciato per calunnia chi mi ha accusato di quel reato. Aspetto che la giustizia faccia il suo corso. Insomma, sono in attesa dell'appello e sarò assolto. Però, insomma, torniamo alla polemica sugli impresentabili. Tra l'altro, Rosy Bindi dice: l'antimafia soprattutto si nasconde nelle liste civiche. Nelle liste civiche. Mentre ieri c'è stato, non so se l'avete visto, il dibattito, io no, su Roma, l'unico confronto su Sky, si confrontano sui vari giornali i candidati di Roma, com'è andata, le pagelle, chi è andato meglio, chi è andato peggio, vabbè, trovate tutto sui giornali. Invece c'è la solita polemica a Bologna, dove Salvini ieri voleva, domani avrebbe voluto chiudere la campagna delle amministrative, ma Bologna, ostaggio dei centri sociali, racconta Il Giorno, la piazza feticcio negata a Salvini. Piazza Verdi a Salvini negata, voleva il 2 giugno. Domani pomeriggio chiude la campagna elettorale, ma il nietta all'uso della piazza è arrivato dal questore per rischio di incidenti. E allora, siamo sempre alle solite, come se ci fosse un Mauro Meazza da accogliere invece. Caro Mauro, come stai? Tutto bene, buongiorno Alessandro. Vedo buongiorno. Che mi fai precedere dagli impresentabili, quindi va bene. No, ho parlato di Salvini. Di Salvini? Erano prima gli impresentabili. Ma mi sembrava che ci fossero abbastanza legati a quello che stavi per dire, per chiamarmi in causa. Senti, ti invito a seguire oggi sul Sole 24 Ore, sul Sole 24 Ore di oggi, la disamina delle relazioni tenute dal governatore. Tra le altre cose, perché tra le altre cose ovviamente il governatore ha affrontato molte questioni, le trovi spiegate nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, ma ci sono dei dettagli che qua e là ti consiglio per la lettura completa, ti rimando poi. Ad esempio, la voluntary disclosure, ci sarebbe spazio, sarebbe emerso solo un terzo dei capitali. Guarda, si sono accorti che non hai riportato i tuoi due urini. Il governatore si è accorto, perché lo scriviamo oggi appunto sul Sole 24 Ore nel commentare queste indicazioni del governatore, che poi ci sono anche dei segnali abbastanza favorevoli per quanto riguarda gli investimenti delle imprese, non così per i prezzi. Sempre leggerai sul Sole 24 Ore di oggi, fanno fatica a riprendersi, è vero, c'è un po' meno di deflazione, meno 0,3 da un meno 0,5, se ci si può accontentare, però sempre il segno meno c'è davanti. Buoni i dati sugli occupati, l'hai visti? Sì. Più 51.000 occupati, sì. In realtà la disoccupazione è aumentata, ma ti spieghiamo il perché. Sul Sole 24 Ore sono diminuiti gli inattivi, cioè gli sfiduciati, quelli che manco più cercavano. Questo sembra un buon segnale. Oh, e poi avrai sicuramente letto nella prima delle pagine della Finanza, avrai sicuramente, non hai letto niente. Non lo so, sto vedendo perché l'ho letta quasi tutta. Ti sei distratto, no, so che tu sei andato a vedere l'andamento del petrolio, perché poi incombe appunto una riunione dell'OCSE molto importante, te lo spieghiamo nella pagina di materie prime, ma fermati un po' prima, perché c'è questa trattativa Cina-Milano per l'acquisto delle squadre di calcio, entrambe, ambedue, da due proprietà diverse. Sai cosa mi ha detto Alberto Forchielli qualche giorno fa? Mi ha detto: fidati, se il Milan va in mano ai cinesi finisce in Serie D. Io spero che si confonda con l'Inter adesso. In ogni caso, guarda, c'è questa trattativa parallela, per così dire, questo destino parallelo delle nostre squadre di calcio. E va bene, ci toccava, sono cose che succedono, dice sempre il tuo inserto audio. Oh, ti voglio, posso fare il maestrino un minuto? Scusami, anche meno. Devi. Allora, la vicenda del velo islamico vietato al dipendente. No, certamente c'è anche sul Sole, volevo solo precisare, sono le conclusioni dell'avvocato generale. Significa, è un po' come l'arringa. Sì, esatto. Poi dopo verrà la decisione, quindi la Corte è ancora Però ci sono già stati dei precedenti. Sentenze precedenti in questo sulla caso. Parte che tu hai segnalato, appunto, come riferiamo nelle pagine di Norme e Tributi, sono le conclusioni dell'avvocato generale. Quindi poi vedremo che cosa decideranno gli eurogiudici, come spesso si chiamano. Infine no, perché c'è un'altra cosa in chiusura un po' più sorprendente. Ti voglio dire che abbiamo oggi i tassi per il credito agevolato per il mese di giugno nelle pagine di norme e tributi. So che tu fai finta, fai mostra di superiorità, ma guarda che è una cosa importante, sono le pagine di norme e tributi. E poi oggi con il Sole 24 Ore abbiamo 16 pagine per il pagamento di IMU e TASI. Allora io volevo celebrare con 4 endecasillabi extra, anziché dirvi il lunedì, li dico oggi, proprio a te dedicati, caro Alessandro. Non ti distrarre troppo ed apri il pugno per porgere quei due urini che hai già lì. Incombe l'IMU al 16 di giugno, ti aiuta il focus del mercoledì. E a questo punto, traffico! Alessandro Milan, il ticket attaccati tac, tacami tac. Ma straordinario, lo faccio sempre a un bambino. Cesare è un bambino di 8 anni, compagno di mio figlio, gioca a basket con lui. Tutte le volte che lo vedo dico: Cesare, ticket tac di tac, tacumi tac, mi tacai tac, ticket tac di tac, tac di tito tac. E lo faccio ovviamente impazzire, ma sta migliorando e ci sta quasi arrivando. C'è anche l'arcivescovo di Costantinopoli, sai Carmelo? Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovi scontantinopolizzareste anche voi? Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovi scontantinopolizzato? No, va bene. Ok, va bene. Allora, ormai sta ridendo Carmelo Lauricella, sta ridendo per questa mia follia lessicale. Non la ripeterò mai, neanche sotto tortura. Allora, signori, su Repubblica, più facile sparare per difesa, perché è stato raccolto ormai 1 milione di firme per il sì alla nuova legge sulla legittima difesa. Ed è stata raccolta dall'Italia dei Valori, che depositerà oggi le sottoscrizioni al Senato per il testo di iniziativa popolare. Liana Milella racconta che con stupore dello stesso partito, che ora è guidato dal segretario Ignazio Messina, c'è stato un profluvio di firme, 1 milione, comuni da nord a sud, dove i cittadini sono entrati in municipio per dare il proprio certificato: a Ravenna 23.000, Viterbo 19.000, Trento 5.000, Saluzzo 3.000, Lanciano 3.500, a Calvisano 2.600, a Carpi 2.500, Arzignano 2.100, insomma. Ora la proposta di iniziativa popolare verrà presentata, depositata oggi al Senato, e c'è una pagina dedicata a Repubblica sulla nuova legge per la legittima difesa. Mentre, che dobbiamo dire? Dobbiamo entrare ancora sulla questione della TV, la TV, le polemiche, il rapporto tra la politica e la TV. C'è un esposto del Partito Democratico contro Ballarò, il Ballarò di Massimo Giannini, che peraltro sapete è addirittura d'arrivo, ormai non verrà rinnovato. L'esposto del PD è contro Ballarò, ci esclude. Questo su Repubblica, ma anche sul Corriere della Sera. Il PD all'attacco di Ballarò ci esclude. Si racconta anche di una situazione sempre più critica, sempre più difficile, anche di critica all'interno dello stesso partito nei confronti del direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, che peraltro è un uomo considerato molto vicino a Renzi. Ma appunto il Corriere della Sera con Giovanna Cavalli racconta, pagina 7, ora nei Dem si allarga lo schieramento dei critici e preoccupa l'azienda. C'è spazio anche per Libero, per storie, come dire, tra il giornalismo e anche le relazioni sentimentali, perché scrive Libero: la RAI conferma l'amorosa di Salvini. Elisa Isoardi verrà poi salvata, a conti fatti il programma di Rai 1 con lei riprenderà e con la stessa conduttrice, e dunque era dato per chiuso il programma, andrà invece in onda e andrà in onda regolarmente. Vi segnalo sul Corriere della Sera una bella pagina di Gian Antonio Stella, che ritorna su un tema che aveva già toccato in passato: l'anfiteatro di Pestum e la catapecchia vecchia abusiva che non si può demolire. È la storia di una catapecchia, una casa diroccata, impossibile da restaurare perché è costruita sopra l'anfiteatro di un celeberrimo sito archeologico, cioè Peshtum. Eppure è in vendita, c'è scritto sulla catapecchia «Vendesi». E a chi? Se potrebbe comprarla solo lo Stato. «Compriamola», direte voi, scrive Stella. «No». Anche se a Peshtum stanno arrivando 38 milioni di euro, per quella casa non si può spendere un solo centesimo, non è previsto dai capitoli di spesa burocratici. Ed eccolo qui l'ennesima storia di abusivismo in un sito archeologico invidiato in tutto il mondo, anche se racconta Gianantonio Stella quando è arrivato l'archeologo a guida da poco dal parco archeologico di Peshtum, il tedesco Gabriel Zücktriegel, 34 anni, ebbene ha trovato una situazione di abbandono, se non di fatiscenza in alcuni casi, e succede anche che esistono delle catapecchie abusive costruite nella zona dell'anfiteatro. E Gianantonio Stella racconta tutto a pagina 23 del Corriere della Sera. Ma eccoci qui, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Torniamo ancora su Libero per raccontare la storia delle tigri in monastero, i monaci buddisti, racconta Daniela Mastro Mattei, sono accusati di sfruttare le tigri. Ma chi se ne frega!